Se hai dato di matto, fatto e fatto tutt'altro rispetto a ciò che andava fatto. Senza tatto, tutto contro te, ma tanto tu sei l'altro. Altro canto, se mi inciampo, vanto sempre la presenza dei fantasmi che mi aiutano col cazzo. Oggi sono stanco per le immagini che assillano, le mille notti in bianco dove le stelle non brillano. Tele senza mani, col pensiero che si tingano, i pittori che mi guardano da fuori e mi deridono. Rinchiuso in un poligono di sensi, non mi basta vista, tatto, gusto, olfatto per sentire se mi pensi. Le ombre sopra i muri sono affreschi, poterò i tuoi rami con i fiori e con i primi farocchetti. Custodendo dentro i fiori in modo tale che non esci, e ti chiedo pianta se piangendoti sul palmo cresci. Riesci a vivere ai lati del marciapiede, tra pozzanghere e benzene dove il sole non ti vede. Una favola scritta sopra il mare che è una tavola, ma pur sembrando immobile c'è sempre l'onda anomala. Amala, odiala, dille che la pensi, mentre pensi a come fare per raggiungerti dei sensi. Una favola scritta sopra il mare che è una tavola, ma pur sembrando immobile c'è sempre l'onda anomala. Amala, odiala, dille che la pensi, mentre pensi a come fare per raggiungerti dei sensi. Una cometa senza coda come punto di partenza, un'iniezione di fiducia tra l'abisso e l'astinenza. Col misero che espressamente libero colpisce giugulari con il fiore di un papavero. È l'elemento primo, ma il primo scalino come step. L'obiettivo è l'estensione del mio target. Pare che per fottere non serva essere rese. L'ultima carezza della più esperta maitress. Linee della vita sulle mani di chi suda. Taglia vita, barracuda, vince forte, non chi ruba. È l'amicizia che provoca l'infarto. Custode del tuo cuore con la piccola più in alto. Un'emozione per sempre, così mi emoziono pure se non provo niente. Fuggo tra le nuvole d'oriente, se il tatto tuo mi attende è un'illusione per sempre. Una favola scritta sopra il mare che è una tavola, ma pur sembrando immobile c'è sempre l'onda anomala. Amala, odiala, dille che la pensi, mentre pensi a come fare per raggiungerti dei sensi. Una favola scritta sopra il mare che è una tavola, ma pur sembrando immobile c'è sempre l'onda anomala. Amala, odiala, dille che la pensi, mentre pensi a come fare per raggiungerti dei sensi. Sorprendente, sul termosifone ardente, scaldamento, sciogliti il pensiero, sciala quando mentre forme la finestra in un bicchiere, dentro lui l'acqua che scorre. L'emozione, il riflesso inseguito tra luci e ombrelli, tra le sbarre di caldo che cuoce, polverose smunta. L'emozione, non la voce, purtroppo il mio letto urla ed io dovrò dormirci, ed io coi suoi amici rimprovera il mio sguardo rivolto sui suoi vestiti. Le mille mila stelle sono tutte cicatrici che contando nel passato lo rivivi. Dunque spegni cielo, spegni termo, sconnessione spontanea tra emozioni ed elettroriscaldamento. Una favola, una coperta calda mentre dormo, un'ombra che l'affresco di ciò che sta raccontando. E io sul mio sifone ardente scaldo ventre, ma non penso che abbracciar termosifoni potrà mai scaldarmi dentro. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top